pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Abemus governum, su questo non c'è nulla da dire, insomma, ho ottenuto la fiducia alla Camera e al Senato. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, volevamo un governo, lo volevate, non c'è, e poi cercheremo di capire se piace, se ci piace, se piace anche l'opinionista estemporaneo che vi presenterò tra pochissimo. Una settimana ricchissima anche questa, con cose positive, cose negative, cose che come sempre vi do la libertà di giudicare qui in trasmissione. Non ci sono più le mezze stagioni, col numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24, numero verde, quindi numero gratuito, naturalmente, come dico sempre, numero ecologico, perché evitate in questo modo almeno per un'ora di disperdere nell'ambiente il vostro tempo, le vostre energie, i vostri pensieri. 800 24 00 24, gli argomenti. Naturalmente anche questa settimana sono moltissimi sui quali vi potete sbizzarrire, e alcuni anche molto molto seri, altri un po' più leggeri, altri che riguardano naturalmente la politica, che può essere pesante e leggera nello stesso tempo. Per fare così proprio un brevissimo riepilogo, poi lo sapete che le vostre idee le potete esprimere con estrema libertà, anche se riguardano altre notizie del governo. Abbiamo detto, ieri è stata completata definitivamente la squadra di governo, con sottosegretari e viceministri che hanno giurato, con questa novità che riguarda la sottosegretaria Biancofiore, fedelissima di Berlusconi, che era stata assegnata alle pari opportunità, con delega anche allo sport, sotto, diciamo, l'egida di Josefa Idem. E poi ci sono state veramente una serie di una vera bufera, soprattutto da parte delle associazioni gay, che hanno detto: non si può ammettere una come la Biancofiore, che spesso ha fatto delle dichiarazioni omofobe, alle pari opportunità. Ed è notizia proprio di oggi, per esempio vedo che è la prima notizia del Corriere della Sera.it: Biancofiore, polemica sull'omofobia, tolte le deleghe alle pari opportunità. Per esempio, cosa pensate di questa vicenda? Devo dire che l'azione riparatoria, se vogliamo dire così, è stata velocissima comunque da parte di Enrico Letta. Poi naturalmente l'attentato che c'è stato domenica scorsa, con tutti gli strascichi, non solo per il povero carabiniere, ma anche riguardo alle indagini, alle giustificazioni o meno, comunque alle argomentazioni che si sono mosse su l'attentato di Preti, che l'uomo che ha sparato davanti a Montecitorio domenica scorsa, che ha ferito gravemente un carabiniere, ne ha ferito un altro, diceva che voleva sparare i politici. Poi c'è stata tutta la polemica con Becchi, cosiddetto ideologo del Movimento 5 Stelle, ma prima Grillo si è difeso in questi giorni dicendo che in realtà non è loro ideologo. Poi mi sembra che oggi sui giornali lo difendesse, dicendo che è finito nel tritacarne mediatico, come si dice spesso, e che aveva detto, insomma, se le persone imbracciano i fucili a un certo punto non c'è nulla di cui meravigliarsi, e anche lì un sacco di polemiche, dissociazioni, eccetera eccetera. Poi il governo nuovo, che molto allargato, molto trasversale, molto multicolore, che comincia a avere però i primi scricchioli su argomenti centrali come sono l'IMU. Che ne pensate di questa questione dell'IMU? C'è chi dice che è in primissimo piano, una priorità, c'è chi dice che ci sono altri argomenti più importanti da affrontare prima. E poi questa fantomatica convenzione per le riforme. E poi c'è stato il 1° maggio, naturalmente, Napolitano, che ha fatto sapere attraverso il suo portavoce che probabilmente non resterà meno di 3 anni. In Siria continua la carneficina, ma anche in Italia molte donne uccise anche questa settimana, tutto regolare naturalmente. Ma che cosa, come sempre, ci dice anche questa settimana? Che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Insomma, ci sono delle certezze che ci accompagnano veramente da anni, da anni. Qualcuno quando era bambino, qualcuno quando ancora doveva nascere, no? Il commissario Derrick, questa serie tedesca che ha avuto successo in tutto il mondo, anche nella lingua africana è stato tradotto. Questo uomo pacioso, con gli occhi a palla, così rassicurante, così tranquillo, così morigerato, sempre pronto a fare il suo dovere, integro, integerrimo, e si scopre che faceva parte in gioventù dell'SS, quindi la Germania ha deciso basta. lo censureremo per sempre, non andrà più in onda mezza puntata del commissario Derrick. Insomma, tutto quello in cui ci siamo anche, come si può dire, un po' coccolati per anni, a cui ci siamo affidati almeno per distrarci nei momenti così di relax, neanche quello. C'è una revisione e si scopre che dietro c'era ben altro. Ma io direi che anche un'altra cosa ci dice che non ci sono più le mezze stagioni questa settimana. Avete visto l'immagine di due papi? Uno pensava di vedere doppio, dicevo, come è possibile, ci sono due papi, tutti e due vestiti bianco con la papalina, così con la tunica. Eppure è successo, i tempi cambiano. Mentre non cambia, dicevo, la sequela infinita di femminicidi in Italia, anche questa settimana varie donne uccise. La ragazza di 19 anni strangolata a Castagneto Carducci, sembra che sia stato arrestato questo uomo senegalese di 34 anni. Poi la trentenne uccisa a Ostia con coltellate, varie coltellate per strada mentre era sul suo motorino. Poi l'uomo che ieri a Roma ha sparato alla donna e poi si è suicidato, una guardia giurata che ha sparato sua moglie. Ci sono diverse foto poi che lo ritraggono vicino a Papa Ratzinger, anche a Papa Bergoglio, faceva baciare il suo bambino, insomma. Questi uomini, vale a capire. E poi adesso anche questa strage che è avvenuta in Puglia. In un primo tempo si è parlato di omicidio-suicidio sempre da parte dell'uomo, però forse una notizia che è arrivata poco fa si dice che siano spariti i soldi in casa e potrebbe esserci dietro una rapina, però per il momento la questione rimane sospesa. Vi ricordo in ogni caso che l'ONU ha definito proprio recentemente il femminicidio in Italia un crimine di Stato, proprio perché l'Italia non fa nulla per combattere questa scia di sangue. Ogni giorno, praticamente ogni giorno, una donna viene uccisa. Ma è tempo, signore e signori, ascoltatrici e ascoltatori, oltre a ricordarvi il numero verde 800 24 0024, di presentare l'opinionista estemporaneo di oggi. Carissimo Mario Secchi. Ciao Roberta, come andiamo? Abbastanza bene, tu? Abbastanza bene anch'io. Mario Secchi, giornalista, già direttore del Tempo. Sì, ora per mia fortuna freelance. Sì. Mario Secchi non ha paura dell'indipendenza, nel senso che no. Mario, sei stato candidato con Scelta Civica. Sì. Ti eri dimesso da direttore del Tempo, mentre per esempio sì, ci sono vari sindaci, ecco, c'è anche questa questione dei sindaci col doppio incarico in questi giorni, che sono anche viceministri, sottosegretari, insomma, mentre Mario si è dimesso, la cosa non è andata a buon fine e adesso fai il freelance. Sì, no, ma sono contento perché ho passato 25 anni della mia vita a fare giornali, ho cominciato a fare il direttore quando ne avevo 30 di fatto, comunque consideravo chiuso un capitolo, diciamo, ora ne apriamo un altro, faccio, come si vuol dire, l'imprenditore di me stesso, ed è molto divertente. Mario, senti, secondo te dura? Bella domanda. Hai cominciato subito con il carico più da 97, pesante. Da 97. Ma dunque, mettiamola così, era il miglior governo possibile nelle peggiori condizioni possibili, no? Quindi dai subito un giudizio positivo, dici la situazione era di grave emergenza, meglio di così. La situazione, per usare un eufemismo, era incasinata, parecchio, nel senso che non c'era nessun gruppo politico capace di tirar fuori una soluzione diversa da questa. Letta è un buon nome, Enrico sorprenderà molto sotto questo punto di vista, già hai sottolineato come tempestivamente ha tolto giustamente. Quindi sei d'accordo? Assolutamente. Cioè, mi stupisce, quando ho letto l'intervista della Biancofiore stamattina ho detto beh, si è giocata la delega, io addirittura pensavo anche il posto, ma insomma. Il governo ha una golden share di Berlusconi, indubbiamente, sul suo capo, nel senso che il PDL è forte nell'esecutivo, anche perché secondo me c'è stato un errore molto grave da parte di Bersani, cioè aver voluto a tutti i costi tutte le cariche istituzionali, poi quando si è trattato di fare un governo di cosiddette larghe intese, è chiaro che i partiti che vi partecipavano insieme al PD hanno detto calma, tu hai tutte le cariche istituzionali, quindi i ministeri di prima fascia spettano a noi. è un gioco assolutamente normale questo. Sulla durata, fatte queste considerazioni, secondo me la domanda è cosa c'è dopo? Perché dopo Letta non ci sono altro che le elezioni, e le elezioni sono sempre un'incognita, anche per chi in questo momento è palesemente in vantaggio e forse gli converrebbero, cioè Berlusconi. Quindi tu dai una prospettiva breve a questo governo? No, se parli io di elezioni. Io do una prospettiva in realtà lunga, o quantomeno di media durata, ecco. Perché comunque, se noi guardiamo la composizione dell'esecutivo, i ministri, i rapporti che ci sono, diciamo, tra i vari componenti dei dicasteri, alla fine Berlusconi ha un governo che paradossalmente è migliore di quello che aveva nel 2008 con la sua stranissima coalizione con la Lega e gli ex di Alleanza Nazionale, che poi è finita come è finita. Cioè dici sta meglio col PD? Sta meglio col PD, non ci sono dubbi. Senti, ma il PD, scusa Mario, ma è la base del PD, gli elettori, secondo te si sentono traditi o per la maggior parte pensano come te, nel senso, in quella situazione no, c'era altra alternativa? Allora, lì è in corso una seduta di autocoscienza collettiva, nel senso che ho uno psicodramma, chiamatelo come, forse, come volete. Forse c'è della psicanalisi politica, diciamo, da fare. Esatto. Nel senso che c'è una parte consistente della base del PD, e io comprendo tutto questo, che non si aspettava ovviamente un'alleanza con il PDL. Poi però c'è una parte che è altrettanto consistente ed è silenziosa, a differenza dell'altra, che in realtà dice vabbè, ma che cosa potevamo fare? Approfittiamo di questa situazione per provare a fare un governo, diciamo, di larghe intese, sì, col nemico, ma non c'è altra strada, e soprattutto approfittiamo della transizione per ricostruire il partito, no? Che mi sembra la cosa più importante, cioè al di là di qualsiasi considerazione partigianeria o appartenenza di fazione, a mio avviso un partito come il PD è necessario al sistema politico italiano, cioè un partito di tipo socialdemocratico, per usare una formula che potrebbe sembrare consunta, ma in realtà non è. Ma internazionale comunque, no? Perché ma internazionale, esatto, perché poi bisogna appartenere a qualche famiglia politica e il PD non appartiene a nessuno, paradossalmente. Beh, di questo in Italia c'è bisogno, quindi io auspico che il PD trovi una guida, una linea politica, una sua stabilità e così via. Altrettanto nel centrodestra, che per ora sopravvive sulla forza di Berlusconi. Senza di lui sarebbe curioso sapere come andrebbero le cose. Senti, ma per quanto riguarda il PD, c'era qualcuno che diceva, adesso poi l'11 maggio ci sarà l'assemblea per decidere se ci vuole un nuovo segretario, intanto ci vorrebbe un reggente, dice qualcuno, viene in mente le autoreggenti, si sta autoreggendo il PD. Ma secondo me sbagliano, nel senso che secondo me devono fare un congresso, andare alla Conta, eleggere un segretario. Renzi? Secondo te Renzi? Renzi è l'unico personaggio politico italiano oggi capace di attrarre nuovi elettori per il Partito Democratico. Attenzione, c'è anche il pericolo che Renzi provochi una scissione, ma, ecco. a mio avviso è salutare, nel senso che si fa una volta per tutte chiarezza. Dentro la sinistra italiana, cioè non c'è niente di male in tutto questo. Proseguiamo dunque dopo pochi istanti, Roberta Giordano sempre con voi, qui a Non ci sono più le mezze stagioni, opinionista estemporaneo di oggi è Mario Secchi, il giornalista e già direttore del quotidiano Il Tempo, e al numero verde 800 24 0024 comincerei a sentire Franco da Brescia, dalla provincia. Buongiorno. Di Brescia. Ciao, grazie Franco. Che mi avete chiamato. Buongiorno. Grazie di aver chiamato tu, Franco, poi noi ti richiamiamo, tutto un giro di telefonate. Ecco, mi è piaciuto le parole che ha detto Secchi in questo momento, però... da una parte lui è un giornalista che non sta facendo, scusi un attimo, Prego. Non sta facendo battaglie come stanno facendo altri giornalisti che non è ancora partito il governo e già dicono che questo governo dovrebbe già finire perché non c'è una coalizione, non c'è di qua, non c'è di là. Sono opinioni, Franco. Sì, ma le opinioni, non è ancora partito questo governo, lasciamolo fare. Poi quello che ha detto Secchi su Renzi, ma anche quando c'è stato Di Pietro lo volevano Presidente della Repubblica, diamo cauto. non può essere, se io sono del PD, non può essere Renzi quello che salva il PD. Chi può essere, Franco? Mentre guidi, ma per me che Bersani dovrebbe farsi un sua colpa per quello come si è comportato. Quando piuttosto correre dietro a un qua come Grillo, doveva fermarsi e essere lui a dire a Berlusconi: sediamoci, troviamo una soluzione, non aspettare che qualcuno gli schiacciasse il naso e poi adesso mettiti da parte. Quindi Franco, se tu sei uno per le larghe intese, anche se sei certo, io quando ero già tutti e tre a pari, dovevano fare tutti e tre il governo, Grillo non ci stava perché non ha la forza, la mentalità, è soltanto capace di dare dei buffoni alla gente, ma in questo momento sono il suo elettorato che dà il buffone a lui, perché lui è andato al governo, ha le possibilità. E poi dopo... ha ottenuto un buon numero, insomma, di voti, sì. Scusi, sì. Quel fatto dicendo che Bersani voleva i suoi voti, non è vero. E anche qua Bersani si è imborsicato il naso. Franco. Doveva dire a Grillo, caro Grillo, io non volevo i tuoi voti, volevo governare con te. Io come dal PD dico, per fortuna c'è stato qualcuno che ha fatto le larghe intese. Quindi preferisci col PDL. Franco, però chi vedresti tu se non Renzi? Quindi un prossimo congresso, assemblea, eccetera, eccetera. In questo momento qua io darei ancora l'opportunità a Bersani, ma però che la pianti e di non comprare a noccioline. Quindi ci ritorni su Bersani. Fare qualcosa di serio. Bene, fiducia di Franco a Bersani. Franco, ti ringrazio. Buona guida. Che dici, Mario? Tu hai detto subito Renzi senza nessuna esitazione, sì. Ma a Bersani daresti un'altra chance? No. Ma non perché io abbia in antipatia Bersani o le consideri una persona non all'altezza di fare il segretario. Bersani è una bravissima persona. Il problema è che il Partito Democratico deve uscire completamente dalla stagione di quelli che erano i ragazzi di Berlinguer e riprendere in mano la buona intuizione che ebbe Walter Veltroni sulla costituzione di un partito che cerca la sua autosufficienza e ha un profilo e un programma politico di sinistra moderata, cioè ripeto la parola, socialdemocratico. È abbastanza interessante sotto questo profilo vedere come il PD non aderisca al PSE. Cioè non fa parte formalmente della famiglia europea di cui in realtà sembrerebbe far parte. Storia identità. Perché? Perché vi è al suo interno ancora una contraddizione molto forte, cioè la fusione tra le varie culture, la cultura, chiamiamola cattolico-democratica o progressista-cattolica, insomma, le definizioni si possono sprecare qua, è quella che invece proveniva dalla cultura post-comunista, non c'è ancora stata quella fusione. Allora si tratta di trovare una persona che mette insieme di nuovo queste esperienze, le tiene e sviluppa un programma politico per quello che è il terzo millennio. Cioè, noi stiamo discutendo oggi ancora come se l'Italia fosse in pieno Novecento, ma non è così. Voglio dire, guardiamo i dati reali, siamo la terza economia d'Europa, la seconda per manifattura. Terza sicuro, perché ogni tanto qui i numeri cambiano, variano, una volta siamo la settima, una volta la terza. Siamo la terza per prodotto interno lordo. Siamo sul podio. La seconda per manifattura. Siamo un paese che comunque ha una sua grandezza con, ahimè, grandi problemi. Il più grande problema, lo conosciamo tutti, è il debito pubblico. Finora nessuno ci ha messo la testa. Allora, di fronte a queste cose, non parlo della disoccupazione, del problema dei giovani, perché non voglio annoiare chi ci sta ascoltando e tutti conoscono bene il tema. Allora, un partito che ha un profilo attento alla giustizia sociale, attento ai diritti degli ultimi, ma è contemporaneamente aperto all'economia di mercato, temperata appunto da un welfare adeguato alla contemporaneità, eccetera. Insomma, ce n'è bisogno o no? Io penso di sì, come c'è bisogno ancora oggi di un partito che abbia, passatemi l'espressione, un pizzico di utopia nelle sue idee. Il sogno, il sogno. Dimmi una cosa, Mario, scusa. Questo è un partito di che cosa? Di sinistra, ma non di una sinistra agganciata a un mondo che non c'è più, di una sinistra che vive nella contemporaneità e accetta la sfida. Mario, invece io voglio conoscere la tua contemporaneità, il tuo mondo, tutto questo cinguettio che hai dietro le spalle, io mi sono curiosa, che parla insieme a te, questi uccellini, dove sei? In un luogo molto bucolico, devo dire. Oggi sono a Roma. E c'è tutto questo cinguettio. A casa mia. E ma sei in un bosco di Roma, c'è un bosco a Roma. Sono affacciato di fronte a un parco e ci sono anche gli uccellini. Ah, vedi che bella collocazione. Adesso ascoltiamo Maria da Trieste dopo gli uccellini all'800 24 0024. Maria. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao Maria. È una trasmissione che sento molto volentieri. Molto. Sempre Radio 24. E, vorrei esordire, dopo naturalmente vorrei entrare nel merito del discorso, si può dare un titolo di un film a questo governo? Certo, certamente, se hai la fantasia. A letto con il nemico. Te lo ricordi quel film? Ho letta a due piazze, si potrebbe anche dire, no? Anche, ecco, esatto. Sì. Al di là di questo, volevo dire che io sono quella parte di elettori che non è andata a votare, faccio parte di quello schieramento. Dunque per me non mi rappresentano loro, perché trovo che questa parte di cioè, tu non hai votato per nessuno, neanche per Grillo? No, per nessuno, nessuno però nessuno. Se noi facciamo i conti, quando loro sostengono che hanno queste maggioranze, la parte di quelli che non sono andati a votare non è più un terzo, è un quarto, no? È giusto così, è un quarto, perché un quarto non sono andati a votare. Pare, sì. È vero? Sì. Ecco, allora quelli non sono neanche, sono i fantasmi che non hanno votato. Al di là di questo volevo fare una considerazione, che guardavo un po' come si sono... divisi i sottosegretari, i ministri e quant'altro, questa infornata insopportabile, che guardavo che la Sicilia, per dire, che non è una regione proprio sotto l'aspetto che si comporta splendidamente, ha tre ministri e anche il presidente del Senato. Noi che siamo nel Friuli Venezia Giulia, confinanti anche con l'Austria, che io trovo che sono persone molto che si comportano bene, non abbiamo neanche uno straccio, ma proprio uno straccio di rappresentanti. Sì, so che c'è stata anche questa polemica per la rappresentanza geografica. È questione di verità, perché si sono divisi gli spazi tutti loro secondo il bilancino Cencelli e siamo qua, insomma, fanno sempre le solite cose. Poi se vogliamo, se gira e volta è tutto, sono sempre le stesse facce. Hanno cambiato, ma è solo una spolverata così. Maria, poi sentiamo a questo proposito anche la rappresentanza geografica, cosa ne pensa Mario Secchi. Però adesso mi lanci proprio il là per il nostro collegamento. Tu sei l'unico al mondo, una trasmissione l'unica al mondo con un collegamento anche con un altro pianeta. Grazie Maria. Riflessioni da Marte. Vedere bene da quassù, da Marte, a scrutare bene il territorio italico col telescopio, pare piuttosto evidente che dopo il calcio si fa decisamente largo in Italia un altro sport nazionale, tutto maschile, a coppa la femmina. E ha onestamente un gran successo se si considera che il tiro al bersaglio, che avvenga con pistola, coltello o martello, ottiene uno strike ogni tre giorni, una femmina accoppata ogni 3D. E nei periodi di maggiore entusiasmo maschile per questa incalzante disciplina sportiva nazionale, anche una femmina al giorno o più femmine in un giorno, come è avvenuto in questi giorni. Scusate il bisticcio di parole. E a proposito di sport, ieri il Presidente del Consiglio ha potuto finalmente dire: ora siamo tutti una squadra. Sarebbe meglio dire uno squadrone, in effetti il numero di ministri, viceministri e sottosegretari ha superato quello del governo Monti. E anche se le donne sembrano di più nelle foto di gruppo, in realtà sono meno complessivamente. Ma a parte le donne, il manuale Cencelli, come diceva la nostra ascoltatrice, per chi studia di politica, va detto, il manuale Cencelli non passa mai di moda, è sempre il supremo modello di riferimento, non come quei libri e manuali scolastici che ogni anno devi indebitarti per comprarli nuovi perché quelli di 6 mesi prima sono considerati obsoleti. No, il manuale Cencelli lo vogliono questi e quelli. Un miracolo di bilancini, quote, calcoli algebrici e geometrici, equazioni funamboliche per non lasciare fuori nessuno, ma proprio nessuno. Tranne naturalmente Quico Qua e Stanley Olio, che già lamentano agli organi preposti l'esclusione. Gli altri tutti insieme appassionatamente. Ma Già a dispetto di questa inedita armonia universale e trasversale, all'orizzonte si profilano fibrillazioni in vista della Convenzione per le riforme. Subito si autocandidano i padri costituenti, di madri nemmeno l'ombra, ma vista la capacità e la volontà di fare riforme nello stivaletto italico, più che di Convenzione per le riforme si potrebbe trattare di CIR-Convenzione di incapaci. Ma ancora più potrebbe far scricchiolare lo squadrone compatto l'imposta più odiata e ripudiata dai stessi padri generatori, l'imposta, dicevo, più odiata e ripudiata del West, la famigerata IMU. Come andrà a finire? Torniamo con i piedi immediatamente per terra. A proposito di chi è stato collocato dove, di questo, secondo te, invece, a proposito di IMU e di Convenzione per le riforme, Mario Secchi finirà a Schifo? Finisce? O come finisce? No, non troveranno. Troveranno un compromesso, una mediazione. Ma il governo di compromesso, del resto, quindi se non trovo compromesso. Senti, però, sulla questione della questa Convenzione per le riforme, già si litiga quando ancora non esiste, no? Che dovrebbe servire per fare queste benedette riforme. E Berlusconi, tu sai che si è autocandidato a essere, diciamo, capo, presidente, reggente, come vogliamo definirlo, di questa convenzione. Subito si sono fatti avanti vari, insomma, polemizzando, dicendo è possibile, da Fassina del PD, diventato sottosegretario dell'economia in questi giorni, ma anche lo stesso Matteo Renzi, che alla fine si è sempre accusato di essere piuttosto, diciamo, simpatizzante, no, di Berlusconi, ha detto è inaudito, dice, poi diventa, che fa? Proprio lui si sente il padre costituente, non possiamo fare di Berlusconi il padre costituente. Ma la battuta più forte, secondo me, poi ognuno pensa, è stata quella di Antonio Di Pietro. Ogni tanto risalta fuori Antonio Di Pietro, che ha detto mettere il Cavaliere come presidente di questa convenzione come Dracula che apre un centro dell'Avis. Battuta riciclata, perché era una vecchia battuta tua, di Tremonti su Visco. Ecco. Quindi insomma il sangue e Dracula ritornano abbastanza di frequente. Ma a te sembra che possa essere effettivamente una cosa inaudita, come dice Renzi, o Dracula messo all'Avis, come dice Di Pietro riciclato? Più che altro è irrealizzabile, nel senso che neppure il Cavaliere in realtà punta a quella poltrona. Si tratta semplicemente di schermaglie tattiche per arrivare a che cosa? A un riequilibrio completo di tutti i posti di potere che devono ancora essere assegnati. Cioè, ma questo è nell'interesse del paese o no? È vero che dice uno per fare politica deve occupare posti di potere, però questo sempre Roberta, scambio, io do una casetta, tu puoi dare un posto a me, io per... è così, allora, dici, no? Nell'isola di Utopia o in un'ipotetica Arcadia tutto funziona perfettamente. Nella realtà la politica è anche questo, ovviamente non solo questo, per cui queste cose funzionano così. Ma funzionano così in qualsiasi organismo politico, cioè non è che le dinamiche di potere sono diverse se andiamo per esempio a Downing Street o se guardiamo la composizione dei governi alla Casa Bianca. Fin qui è tutto abbastanza normale. Il problema non è come arrivano, diciamo, a trovare il compromesso e gli equilibri interni e tra forze politiche. Il problema è: fanno o no le riforme? Punto di domanda. La questione è tutta lì, è sul tappeto da ormai 30 anni. Di commissioni che hanno lavorato le riforme istituzionali ne contiamo parecchie. Le più famose sono la commissione Bozzi, che elaborò un ottimo impianto per una nuova Italia, e la stessa bicamerale presieduta, no, da D'Alema, che poi Berlusconi fece saltare, eccetera. Dunque, diciamo che i tentativi vanno fatti, dopodiché tra un paio di mesi noi cominceremo a tirare valutare come sono andate le cose. Che cosa succede. Per quanto riguarda Berlusconi e la convenzione, non ci crede neanche lui, nel senso che è una tattica per tirare su, diciamo così, la trattativa e assegnare, secondo me è anche giusto, la presidenza a un esponente di centrodestra. Ma è giusto in considerazione del fatto, non perché io voglia che lo prenda uno del centrodestra, eccetera, perché le altre cariche istituzionali sono andate tutte alla sinistra del PD. Senti, cioè, ma il Movimento 5 Stelle si darà qualche carica? Le commissioni, sai che loro chiedono le commissioni di vigilanza RAI, per esempio, Copasi, eccetera. Beh, però posso dirti, io sotto questo punto di vista, allora ci sono due tattiche. La prima è quella dell'ingaggio, cioè tu li coinvolgi nel processo democratico, cerchi di farlo. Così attenui anche le tensioni, i conflitti, dici, questo li riassorbi. Nella vita istituzionale. La seconda li escludi totalmente. Poi c'è la variabile terza, che è il fatto che loro finora non è che si siano dimostrati molto propensi a partecipare alla vita istituzionale in maniera piena. Cioè, voglio dire, chiedono però le commissioni, questo l'hanno chiesto dall'inizio, dici, però non si possono chiedere, bisogna conquistarle. Mario, le commissioni di vigilanza, secondo me, anche quelle vanno conquistate. Volevo dedicare proprio un minutino alle opinioni sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, a proposito di chi, perché c'era stato anche un editoriale di Giovanni Sartori, decano dei politologi italiani, sul Corriere in questi giorni, che diceva che insomma diversi esponenti politici erano stati collocati in questa voglia di gran calderone, forse in luoghi in cui non erano proprio la persona giusta al posto giusto. Allora ho chiesto alle ascoltatrici e agli ascoltatori sulla pagina Facebook della trasmissione, e per esempio Elena ha scritto: chi è la persona sbagliata al posto sbagliato? È facile, il sottosegretario alle pari opportunità, la signora Biancofiore, che appunto sapete che oggi è stata rimossa, diciamo, da quell'incarico in particolare. Poi Gaetano dice: sono tutti perfetti, che domanda naturalmente in modo ironico. Stefano scrive: il più indigeribile è Micicché, il cui incarico alla pubblica amministrazione rende bene l'idea di disprezzo che ormai i governi hanno di tutto ciò che è pubblico. Poi Giulio scrive: quella dell'agricoltura, una garanzia, immagino che si riferisca a Nunzia Di Girolamo. Ra scrive: la signora Biancofiore che sa bene cosa sono le opportunità, peccato che per quel ruolo non si intendono le sue. Cinzia scrive: tutti gli ex deputati nei governi passati, PDL e PD in testa. Poi Sergio, secondo lui la persona sbagliata al posto sbagliato è Biancofiore, comunque non è l'unica buffona da Maxi Gruppo. Scrive Andrea: c'è qualche giusto al posto giusto, forse la Bonino. Elena scrive: almeno la giovane italiana Biancofiore. Alino dice: sbagliato l'intero governo, tuttavia mai nulla vi fu di peggio della Biancofiore. Insomma, diciamo che ha vinto la classifica sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Daniela dice: la ministra Nunzia Di Girolamo all'agricoltura non ha nessuna competenza nel settore dell'agricoltura italiana, pesca eccetera eccetera, e che in questo momento andavano diretti questi settori da una persona di alta competenza. E poi dice anche la Biancofiore. E infine Paolo: fra i tanti ho sentito dire che Letta avrebbe scritto in un libro Morire per l'euro o qualcosa di simile. Se è vero, è sbagliato lui per primo, a cascata a tutti gli altri. Non so se abbia scritto quel libro, ma sentiamo Mario Seghi, sentiamo Augusto della provincia di Firenze, sempre al numero verde 800240024. Augusto, buonasera. Buonasera Augusto. Sì. Mi volevo riferire alla recente notizia che anche i magistrati hanno avuto un incremento di intorno al 5% del proprio stipendio. Devo dire che questa mi è sfuggita. In generale viene chiesto, diciamo, a tutte le altre categorie un piccolo sacrificio, piccolo o grande, insomma, comunque. In particolare qui si entra in un campo in cui è difficile la distinzione tra quello che è il diritto acquisito è quello che può essere il privilegio. Per esempio, certe pensioni che superano certi limiti, di fronte ai quali non c'è più, diciamo, una vita tranquilla che ci permette qualche piccola soddisfazione, ma addirittura c'è ancora la possibilità di arricchimento. Secondo me sono delle situazioni non più tollerabili. E lo so, diciamo che la questione del quando uno va in pensione un po' in pratica minimo di tranquillità si è lavorato, di dare un contributo alla società. E quindi un altro esempio che è stato riportato è che i dipendenti della Camera e del Senato, a parità di funzioni similari, guadagnano addirittura, sembra, 5 volte in più degli altri. Sì, chi lavora sì, a Montecitorio, al Senato, non so, chi lavora alle poste, all'interno, le stesse forze dell'ordine guadagnano più di chi lavora fuori. Questo è vero, Augusto, è sempre la questione un po' dell'iniquità che ultimamente sta diventando un po' esplosiva. Grazie Augusto. Gabriella da Catania. Gabriella, stai correndo al telefono? Dove l'avevi lasciato sul telefono, Gabriella? Pronto? No, proprio caduta Gabriella. Claudio da Bologna, l'80024-0024. Vediamo se riusciamo a recuperare Gabriella. Pronto? Claudio. Buongiorno e grazie per aver chiamato. Grazie a te. Volevo dare una piccola testimonianza, sì, riguardo al discorso del primo maggio. Io sono un dirigente di Confindustria Emilia Romagna, mm-hmm, e il nostro presidente, il presidente di un'industria a Bologna, è stato chiamato per il primo maggio dai sindacati in piazza, sì, in Piazza Maggiore. E chiaramente il concetto è sempre quello, cioè noi riteniamo, il presidente riteneva che noi fossimo solo degli ospiti, per quanto, anzi, era un onore per noi essere chiamati nella festa che doveva essere e rimanere la festa dei lavoratori. Il problema è che appena il presidente Alberto Vacchi ha cominciato a parlare, perché eravamo qui in due, è stato chiaramente aggredito alla voce, insomma, con urla, dicendo padrone, sfruttatore e cose di questo genere. Francamente io credo che dal mio punto di vista non è tanto un problema di tipo economico, una crisi economica, ma una crisi di sistema, quello che stiamo percorrendo tutti quanti insieme in Italia. E trovo, sì, francamente una bella cosa che il presidente Vacchi si sia proposto, e io mi sono complimentato con lui per il coraggio in quel consesso, perché ritengo che da questa situazione, che è una situazione nuova, sì, se ci mettiamo tutti insieme, solo uniti, e non esiste più il padrone vecchio stampo. No, questo è chiaro, Claudio, anche se mi sembra che già un pochino i rapporti stiano cambiando, che questa consapevolezza ci sia un po' di più. Speriamo che sia duratura, approfondita, onesta da entrambe le parti, trasparente. Poi è chiaro che ci sono dei momenti magari di tensione particolari come quelli che avete vissuto a Bologna. Claudio, io ti ringrazio molto, il tempo comincia a correre. Grazie a voi di avermi ascoltato. Grazie Claudio. E vorrei far sentire a voi e a Mario Secchi una cosa che io ho trovato straziante. Ne sentiamo proprio una piccolissima parte. Se poi volete andare a rivedere il video c'è sul sito di Radio 24. Parliamo di testamento biologico, di eutanasia, si è ritornato a parlare in questi giorni perché c'è una raccolta firme da parte del Partito Radicale, in particolare dell'Associazione Coscioni, per dare la libertà a ciascuno di decidere della propria vita nel momento in cui, in particolare, questa vita prende una piega, diciamo, senza nessuna prospettiva, senza nessuna alternativa, e soprattutto di grandissima sofferenza. Questa è la storia di una donna, storia di Piera, che è malata terminale e viveva in questo paese chirignano, in provincia di Venezia, e ha deciso di rivolgersi a una clinica svizzera dove è morta il 29 novembre. E questo video lo sta usando in questi giorni appunto l'Associazione Luca Coscioni per questa campagna che si chiama Eutanasia Legale. Vi faccio sentire proprio una piccolissima frazione e poi vorrei sapere la vostra opinione e quella di Mario Secchi, 80024 0024. Le altre strade mi portano lì, non mi portano alla guarigione, non mi portano ad avere una vita diversa, non mi portano a niente, mi portano sempre e comunque alla fine della vita mi portano. Allora, perché non scegli la strada meno dolorosa? Che mi fa paura anche quella. Però non ho dubbi. Io non voglio più soffrire. Diventa una sofferenza fine a se stessa. Una sofferenza che non giova a nessuno. A chi giova la sofferenza mia o di tanti altri? A chi serve? Per quale motivo io devo soffrire fino a morire? Si soffre fino a che si muore. Chi può arrogarsi il diritto di dire e di fare questo? Chi? Se non io. Io, la mia vita, la mia morte, io decidere di me. Io non so, Mario Secchi, come la pensi. A me questa cosa ha tolto il sonno stanotte, proprio stanotte mentre finivo di preparare alcune cose da trasmissione. Non so come la pensi tu, io credo che però è assolutamente paradossale che ancora non si capisca che ognuno deve essere almeno padrone della propria vita. Non si è padrone di nulla nella vita, nel mondo, no, almeno della propria vita. E fra l'altro la cosa paradossale che trovo ulteriore è che chi dice no, la tale persona deve continuare a soffrire perché la vita deve essere nutrita, deve continuare comunque, anche se si sa che morirà tra un mese, tra 2 mesi, tra 5 mesi, soffrendo. Chi dice questo ritiene che ognuno non sia padrone della propria vita, ma ritiene essere lui padrone o lei padrone della vita degli altri, decidere per gli altri. Non è una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra, un ossimoro. Come la pensi tu? Ma io la penso che questo è uno di quegli argomenti che fa parte delle riflessioni personali che nel corso della vita di un uomo e di una donna cambiano, no? Perché a seconda delle esperienze che vivi, sì, e di quello che senti. A seconda delle esperienze che vivi, ci sono fasi della vita in cui tu pensi che la tua vita è sacra e inviolabile e dunque si deve andare avanti lo stesso, ci sono fasi in cui la riflessione sul tema ti porta a pensare che in fondo c'è anche il libero arbitrio, no? E quindi la volontà di una persona in determinate condizioni di smetterla di vivere e quindi di fare questa scelta che è ovviamente una scelta personale, drammatica. Certo, mica uno è contento di fare una scelta, no, del genere, no? Però ora qua siamo veramente di fronte al più grande tema filosofico, forse l'unico. Albert Camus diceva che c'è solo una grande domanda filosofica alla quale vale la pena di rispondere, cioè se valga la pena vivere o no. Ognuno però lo deve sapere per sé, non può imporlo a un altro. Ognuno lo deve sapere per sé, perché sennò poi entriamo nella dimensione dello stato etico, per così dire. Punto. Certamente quello che si può dire è che bisogna fare in modo che tutti insieme, le persone che poi si esprimono nella collettività, devono trovare dei buoni motivi per vivere, e quindi bisogna adoperarsi per cercare quello che poi si definisce un mondo migliore. L'altra domanda a questo punto che ci dobbiamo porre è: stiamo facendo tutto questo? Io penso di no. Guardavo la pagina Facebook, Non ci sono più le mezze stagioni, Mario Secchi, almeno due ascoltatori, fra i molti stanno scrivendo, ti definiscono un analista politico finissimo Mario. Io li ringrazio, sono troppo buoni. È molto difficile analizzare la politica. È anche l'argomento che avevamo appena trattato. Però adesso abbiamo un appuntamento, possiamo saltare, con il nostro Don Severino da Potenza. Caro Don Severino, a te la parola per questa settimana. Ciao Roberta. Allora, devo dare una bella notizia che ho letto su Repubblica. E al liceo Tasso c'è stata una lezione contro l'omofobia di un giovane 25enne americano, Timothy Kurek. Esatto, io credo che sia una bellissima testimonianza. Questo giovane per 365 giorni ha fatto, diciamo, il gay e ha scoperto l'assurdità, l'ipocrisia e i pregiudizi. Speriamo che in Italia ci siano molte più lezioni a questo titolo, così biancofiore diventerà nero fiore. Grazie. E questo è Don Severino. Adesso invece ci rivolgiamo a Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, ti sottopongo un termine che, diciamo, impregna di sé completamente questo governo e nella politica ci vuole, si chiama compromesso. Compromesso, sì, certo, parola anche questa di grande attualità. Più o meno tutti sappiamo che cos'è un compromesso, cioè un accordo, un accomodamento tra due o più persone o partiti in contrasto tra di loro, e ciascuno dei partecipanti rinuncia a una parte delle sue richieste, famosissimo il compromesso storico negli anni 70-80, però non tutti sappiamo da dove viene la parola. E la parola viene, come al solito, dal latino, era il participio passato del verbo compromittere, quindi il latino compromissum, che in origine compromissum significava promessa reciproca, quindi che si fa tra le due parti. Però forse, ecco, la mia osservazione è questo: chi fa troppi compromessi dovrebbe ricordare che il verbo compromettere in lingua italiana significa anche rischiare, mettere in pericolo, mettersi in pericolo. E quindi che cosa ne deriva? Che facendo troppi compromessi si può finire per compromettere la propria reputazione o la propria carriera, e aggiungo, non solo quella politica. Grazie Cavaliere della Valle. Arrivederci, ciao. E compromettiamoci quindi, continuando a sentire le vostre opinioni all'800 24 00 24, è solo di accomodarci, di incontrarci, diciamo, le nostre opinioni, nelle nostre pensieri. Claudia da Ferrara. Sì, buonasera. Buonasera Claudia. In ogni modo l'argomento è molto delicato. In ogni modo io sono proprio dell'avviso che uno deve scegliere come la sua fine, come deve essere fatta. Cioè vorrei proprio che fosse una cosa che fosse applicata il più presto possibile per avere la possibilità proprio di aderire. Cioè vorrei che da subito io potessi scegliere le mie condizioni, perché certe, e poi anche di più aggiungo, vorrei dire ad esempio in un testamento che se ad esempio mi viene un ictus non sono più capace di intendere di volere, perciò vorrei che mi fosse, il mio desiderio fosse esaudito, quello di fare l'eutanasia. Testamento biologico, famoso, di cui si parla tanto testamento tempo. Testamento biologico, sì. Vorrei fosse una cosa che fosse approvata prestissimo. Claudia, ti ringrazio. Volevi aggiungere altro? Ma no, io non sono molto colta, di conseguenza forse non mi sono neanche espressa tanto. Ti sei espressa benissimo, Claudia, sei stata chiarissima, più chiara di così. Insomma, l'autodeterminazione è una cosa che sostengo anch'io con tutte le forze. Mi terrorizza l'idea di essere io nelle mani di qualcun altro che decide al posto mio della mia vita, almeno della mia vita, almeno della fine della mia vita. Voglio essere padrona di decidere io personalmente. Grazie Claudia. Annalisa da Rimini all'800 24 00 24. Pronto? Sì, siamo qua. Buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire su un argomento che avete trattato prima. Sì. Sugli sprechi. Sì. E pensavo a tutti i cassi integrati che vivono un momento triste, difficile della loro vita, ma sono contemporaneamente una grande risorsa per il nostro paese, perché se si pensa a tutte quelle necessità che in ogni singolo comune ci sono e per le quali non vi sono i fondi, le finanze per farvi fronte, quindi i comuni devono rinunciare a far pulire un fosso, a tagliare l'erba nei giardini, a fare delle pulizie, tante attività. E potrebbero i cassi integrati in quei 2, 3 mesi, 6 mesi che sono fermi a casa essere reimpiegati. Questo comporterebbe dal mio punto di vista l'impiego di una grande risorsa, se no inutilmente lasciata a casa, e d'altra parte anche per loro una possibilità di continuare tutte le mattine, avere un impegno, avere qualcosa che li porta a stare con gli altri e non cadere in brutti pensieri. No, depressione. Ma effettivamente questo è un buon ragionamento, Annalisa, anche se è una questione anche questa dibattuta da tempo, e a volte si è detto che però non tutte le persone possono fare qualsiasi cosa, quindi diventa quasi più impegnativo formarli per fare quella cosa che non lasciarli, diciamo, nella situazione in cui si trovano temporaneamente con la cassa integrazione, Annalisa. Diciamo, Sicuramente è vero, però è anche vero che tutti a casa più o meno tagliamo l'erba nel giardino, raccogliamo le cartacce. Penso sì, che sì, sia sono più un cose problema di questo di tipo, mentalità proprio, sì, che probabilmente. Di probabilmente. Ti ringrazio Annalisa. Grazie. Ciao. Nicola da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24. Sì, buonasera. Io volevo intervenire sul discorso eutanasia. Sì. A me preme sottolineare una cosa. Io penso che la paura di tutti noi, insomma, ancestrale della morte, ma sia anche la paura del dolore e la paura della solitudine. La storia di Piera a me ha colpito la solitudine di questa donna e la sua disperazione. Io penso che se noi ci stessimo vicini a queste persone e quindi ci impegnassimo a non farli soffrire e a non lasciarli soli, forse, dico forse perché poi come avete detto voi la scelta è libera, ma forse queste persone farebbero delle scelte differenti. Può darsi, insomma, poi dipende da chi sono queste persone che devono star vicino, un conto se uno dei parenti, a volte non serve neanche se lei dice, se tu hai seguito bene il suo video, che dice che la sua malattia del fegato, il tumore che si gonfia, che le fa male da morire, eccetera. Il conforto di qualcuno vicino, tu puoi saperlo soltanto tu se è sufficiente a tenerti ancora in vita oppure no. Comunque, Nicola, è naturalmente un'opinione legittima la tua e sicuramente si può fare qualcosa di più anche a livello di assistenza sociale, statale, eccetera. Poi si taglia dappertutto, quindi figuriamoci. Ti ringrazio, Nicola, ma in questo minuto che ci rimane, diciamo questi 34 secondi, caro Mario. Tu sai che adesso si potrà stabilire se il mondo è triste o felice. Si inizia dagli Stati Uniti, ci sarà un termometro delle emozioni via smartphone, questi smartphone ormai cucinano, fanno il caffè, fanno l'arrosto con patate eccetera, analizzerà le parole usate su Twitter misurando la temperatura emotiva. Tu ce l'hai Twitter? Io mi chiedono sempre, ce l'hai Twitter? Sì. Io sto cercando di attrezzarmi ma di usarlo insomma non sono ancora molto pratica. Pensi che sia una buona cosa questa di misurare con Twitter in 2 secondi la felicità del mondo? No, perché la felicità del mondo non si misura facendo l'analisi metrica delle parole sul web. o dei messaggi SMS. La felicità del mondo si misura su quanto benessere viene diffuso, su quanti poveri escono dalla soglia di povertà, su quanto le perequazioni che ci sono oggi tra ricchi e poveri vengono colmate. E su questo, Mario, io ti fermerei, già detto moltissimo, mi sembra importante, mi si sta per aprire la botola sotto il sedere. Grazie a Mario Secchi e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti. A tutti.